La magica pompezza compratela per Natale e in tutti i negozi la puoi andare a comprare. Sotto l'albero non può mancare, la tua amica la vorrà trovare, perciò non parte la scappare. La magica pompetta, il regalo 2007, non può mancare. In giro sto per Natale che ti comprerò, ora mi chiami a sé, mi vuoi dire che dopo anni un uomo c'è, il tuo regalo ora in mente vi è più adatto non c'è, è meglio di un bidet. Cos'è? Una volta all'anno che puoi scappare, un morto di fame sei riuscita a trovare, non te lo puoi far scappare, nemmeno a pagamento riesci a trovare. Lo svuotino devi fare, tanta merda hai da levare, io ti regalo questa pompetta, ecco a te la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, multicolor c'è, di seta o di paillette, come piace a te, come la vuoi ce n'è, non la puoi far scappare, il regalo dell'anno è già, il bollino con la mia faccia c'è sulla scatola. Cos'è? Una volta all'anno che puoi scappare, un morto di fame sei riuscita a trovare, non te lo puoi far scappare, nemmeno a pagamento riesci a trovare. Lo svuotino devi fare, tanta merda hai da levare, io ti regalo questa pompetta, ecco a te la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, anche a rate puoi pagare, e lo spot tu puoi guardare su Gay TV di notte e di mattina. Allora cosa aspetti a comprare? La tua amica la vorrà. Cos'è? Una volta all'anno che puoi scappare, un morto di fame sei riuscita a trovare, non te lo puoi far scappare, nemmeno a pagamento riesci a trovare. Lo svuotino devi fare, tanta merda hai da levare, io ti regalo questa pompetta, ecco a te la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, la magica pompetta, etta, etta, andate, anche a rate, la puoi pagare, la puoi pagare, su Gay TV, il mio sportello. La pompetta.